Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gerusalemme è l'appello del Papa a conservare lo status quo. Iran e Turchia si schierano contro Trump. Si chiude alle 14 con gli emendamenti per il biotestamento al Senato. Approveremo anche lo Ius Soli, dice Zanda. Ponte dell'Immacolata, si stimano 7 milioni e mezzo in viaggio. Impianti sciistici a pieno ritmo. Atac torna in servizio il macchinista che non si accorse di una donna incastrata nelle portiere della metro perché stava mangiando. Morto Johnny Hallyday, icona della musica francese, portò il rock nel paese. Champions League, dopo Juve e Roma che passano agli ottavi, stasera tocca al Napoli in bilico. Una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo come sempre anche in diretta video. Se volete potete commentare anche là oppure sulla pagina di Effetto Giorno. Dall'altra parte del vetro, Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione. Iniziamo e torniamo in apertura sullo scontro su Gerusalemme. Sentiamo. Alcuni commentatori pensano che dietro il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele vi sia l'ennesimo tentativo da parte di Trump di distrarre dal Russian Gate. Che sia così o meno, il dato di fatto è che gli Stati Uniti dovrebbero trasferire l'ambasciata americana attualmente a Tel Aviv, dove si trovano anche le altre rappresentanze diplomatiche degli altri paesi, a Gerusalemme. Lo spostamento avverrà non prima di 6 mesi. Per comprendere la portata della notizia si dovrà aspettare e capire se il capo della Casa Bianca assegnerà l'intera città allo Stato ebraico, specificando i tempi del trasferimento della sede diplomatica, o se invece farà una dichiarazione generica, lasciando la possibilità di una designazione della zona est come capitale del futuro Stato palestinese. In quest'ultimo caso, gli effetti negativi potrebbero essere minimi, ma se avvenisse il contrario, la nuova intifada minacciata da Hamas esploderebbe, vanificando ogni negoziato di pace. Nel dubbio, le fazioni palestinesi e islamiche hanno proclamato 3 giorni di collera che iniziano oggi e finiscono venerdì. Il sistema di difesa israeliano si sta preparando per una possibile violenta rivolta palestinese in Israele, principalmente a Gerusalemme. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo è intervenuto anche il Papa. Sentiamo le sue parole. Non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione che si è creata negli ultimi giorni e nello stesso tempo rivolgere un accorato appello affinché sia impegno di tutti a rispettare lo status quo della città in conformità con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite. Gerusalemme è una città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musulmani, e ha una vocazione speciale alla pace. Prego il Signore che tale identità sia preservata e rafforzata a beneficio della Terra Santa, del Medio Oriente e del mondo intero, e che prevalgano saggezza e prudenza per evitare di aggiungere nuovi elementi di tensione in un panorama mondiale già convulso e segnato da tanti e crudeli conflitti. Così dunque il Papa. Cambiamo argomento, andiamo alla politica italiana e al biotestamento che è al Senato. Però arrivano aperture anche sullo Ius Soli. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Scade alle 14 il termine per la presentazione degli emendamenti al Senato per il disegno di legge sul biotestamento, mentre l'Aula di Palazzo Madama ha respinto questa mattina la pregiudiziale di costituzionalità proprio sul testo, sul fine vita, e subito dopo è iniziata la discussione generale sul provvedimento. Il testo ricompatta il centrodestra, contrari a PIL, Lega e anche Forza Italia, che ha deciso ieri al termine dei lavori d'aula. Il capogruppo Paolo Romani ha precisato che il gruppo non farà ostruzionismo ma voterà contro il provvedimento. D'accordo invece la sinistra, PD e Movimento 5 Stelle, ed è già scontro sul calendario dei lavori. Il Senato infatti esaminerà la riforma del Senato tra il 19 e il 29 dicembre, poi toccherà allo Ius Soli. Ultimo primo posto nel calendario, fiducioso però il capogruppo del PD Luigi Zanda, che spera di approvare tutti i provvedimenti prima della pausa natalizia, incluso lo Ius Soli. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Abbiamo i dati dell'Istat di oggi. In Italia aumenta la forbice tra ricchi e poveri, una crescita del reddito e del potere d'acquisto delle famiglie, ma anche una crescita delle disuguaglianze e il rischio povertà. Nel 2016 quasi un italiano su tre è a rischio povertà ed esclusione sociale, in tutto 18 milioni di persone, pari al 30% della popolazione. Numeri in salita rispetto al 2015 e ancora lontani dagli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020, scrive l'Istat. La situazione più critica si conferma al sud, ma il peggioramento maggiore è al nord. Così come a soffrire sono soprattutto le famiglie con 5 o più componenti, ma è per quelle con uno o due che l'indicatore peggiora. Per contro, il reddito netto medio annuo nel 2015 sale ed è pari a circa 2.500 euro al mese, primo incremento in termini reali dal 2009, rivela l'Istituto di Statistica. La crescita però riguarda soprattutto il quinto più ricco della popolazione, ci racconta Federico Polidoro dell'Istat. Questo vuol dire che l'aumento del reddito che è stato registrato nel 2015 in realtà non si è distribuito in maniera omogenea tra i diversi gruppi di famiglie, nel senso che è andato maggiormente nelle tasche dei più abbienti. Per metà delle famiglie, infatti, il reddito netto è inferiore ai 2.000 euro al mese. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi pomeriggio, c'è qualche ascoltatore che ci chiedeva notizie di questo, non è che mettiamo tutto quanto nei titoli, magari parliamo di tutti gli argomenti, ma non mettiamo tutto nei titoli. Oggi pomeriggio si decide il calendario delle audizioni della Commissione Banche, lo snodo come sapete è eminentemente politico, l'attenzione è concentrata sull'ipotesi di audizione dell'ex amministratore delegato di Unicredit, Ghizzoni, sentiamo. Dopo il nulla di fatto nell'ultimo incontro, nel pomeriggio torna a riunirsi la commissione d'inchiesta sulle banche. Sul tavolo c'è il calendario delle prossime audizioni, sul quale ieri è andato in scena un nuovo scontro fra il PD e le altre forze politiche. Il partito di Renzi si è opposto all'audizione dell'ex amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, al quale, secondo quanto rivelato da Ferruccio De Bortoli nel suo libro, si sarebbe rivolta la sottosegretaria Maria Elena Boschi per acquisire e salvare dal crack Banca Etruria, l'istituto del quale suo padre era vicepresidente. Una circostanza sempre smentita dalla Boschi, che ha annunciato un'azione civile contro De Bortoli. I democratici pongono come condizione che oltre a Ghizzoni vengano sentite anche altre personalità del mondo bancario. I tempi però sono stretti perché sul lavoro della commissione incombe lo scioglimento delle Camere. Spetta ora al presidente dell'organismo, Pier Ferdinando Casini, trovare una soluzione che riesca a mettere tutti d'accordo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Come sapete, in questi giorni stiamo sentendo vari componenti della Commissione, in queste settimane li abbiamo sentiti. Oggi Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, intervistata da Livia Zancanera. Fino al nodo Maria Elena Boschi, la Commissione ha lavorato comunque con una certa collaborazione delle varie forze in campo. Arrivati a Ghizzoni arriva il nodo. Ci domandiamo perché. Perché non si può sapere se la ministra Maria Elena Boschi, approfittando dell'allora ruolo, è andata da Ghizzoni per salvare la banca che era stata gestita dal padre. Noi abbiamo bisogno di questa conferma per poter concludere i lavori che stiamo portando avanti. In questo modo non si rischia una strumentalizzazione politica della commissione d'inchiesta sulle banche che ha un altro ruolo? Guardi, io su questo voglio essere molto precisa. Non è la commissione banche che ficca il naso nella politica, ma è la politica che con i suoi conflitti di interesse si è intrecciata con le banche e quindi la commissione si trova ad analizzare anche casi politici. È esattamente il contrario. Stasera quindi deciderà Casini? La parola spetta a lui? Noi ci auguriamo che alla fine si arrivi ad un punto condiviso e che non ci debbano essere votazioni o forzature di mano da parte del Presidente. È giusto, e i tempi ci sono, audire tutti, sia quelli che stanno scomodi ad uno, sia quelli che stanno scomodi all'altro, però bisogna andare fino in fondo. Così dunque Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, componente la Commissione Banche. Una brutta notizia che arriva da Torino. 3 operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro in una ditta di prodotti chimici. La dinamica dell'incidente è ovviamente ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, però, sarebbero stati investiti da una fiammata durante la lavorazione di un solvente. Trasportati in ospedale, 2 sono in codice rosso per le ustioni. Sul posto ci sono vigili del fuoco e polizia. Appena avremo aggiornamenti anche sulle condizioni di queste 2 persone, naturalmente ve li daremo. Ancora con la cronaca, 4 condanne all'ergastolo per l'omicidio del 17enne Jenny Cesarano. Lo ricorderete, vittima innocente nel rione Sanità a Napoli il 6 settembre 2015 di una stesa. Cosa sono le stese? Sono quei raid a colpi di pistola della camorra per seminare terrore fra gli avversari. La sentenza è stata emessa dal GUP Alberto Vecchione al termine del processo con rito abbreviato. Dunque le condanne sono state 4 all'ergastolo e 16 anni invece per un altro componente di questo comando che invece ha collaborato con gli inquirenti. La Procura di Roma è sempre sulla cronaca, ha aperto un'inchiesta sull'aggressione di sabato scorso 2 dicembre all'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e la sua troupe nel quartiere popolare di San Basilio. Lesioni e minacce, i reati configurati dai magistrati di Piazzale Clodio, al vaglio dei quali è arrivata una prima informativa dei carabinieri. Siamo alla montagna, passiamo a parlare un po' di vacanze anche. La montagna ci aspetta, questa volta a differenza degli ultimi anni le premesse sono ottime, freddo, sole, tanta neve, insomma siamo quasi in inverno e quindi è così, tutto esaurito nel Ponte dell'Immacolata, si prevedono 7 milioni e mezzo di persone in viaggio, ottimismo anche per Natale e Capodanno, le stime dell'osservatorio Ski Pass di Modena parlano di un forte aumento del popolo degli sciatori che ormai sono 4 milioni. Sentiamo Diego Clara di Dolomiti Super Ski al microfono di Dario Ceccarelli. I costi sono un po' lo specchio dell'offerta, ovvero parlando di Dolomiti Super Ski non c'è comprensorio sciistico al mondo che offra così tanto in termini di varietà di piste, sono 1200 chilometri, sono 12 valli, sono piste che vengono mantenute perfette ogni giorno, usciamo coi gatti a battere le piste di notte per averle lisce la mattina. Abbiamo sistemi di innevamento ipermoderni che garantiscono appunto la sciabilità. Chi viene da noi sa che può sciare. E poi gli impianti sono moderni, sicuri, veloci, le code non ci sono quasi più e il tutto ha il suo prezzo. Prevede un aumento quest'anno o siamo in linea con l'anno scorso? C'è stato un adeguamento di circa il 2% che purtroppo però è dovuto all'aumento dei costi delle materie prime che ci servono a noi, ovvero l'energia, costo lavoro e carburanti per i macchinari. Purtroppo a questo non riusciamo a scappare, è un trend che dobbiamo inseguire per rimanere comunque efficienti e competitivi. È morto Johnny Hallyday. I titoli sui giornali italiani parlano di Johnny Hallyday come dell'Elvis francese, ma lui era molto di più, un simbolo della Francia, tanto che anche le massime cariche istituzionali, oltre al mondo dello spettacolo e a tutti i suoi fan, gli stanno rendendo omaggio. La notizia della morte di Hallyday non è purtroppo giunta inaspettata. Era malato da tempo, ma soprattutto da qualche settimana le sue condizioni si erano aggravate, tanto che una falsa notizia della scomparsa era circolata la scorsa settimana sui social network. A dare l'annuncio ufficiale è stata la moglie Letizia con un comunicato poco dopo le 3 del mattino. «Scrivo queste parole senza crederci, eppure è così, il mio uomo non c'è più». L'intero paese si è così svegliato piangendo il mito che pensava immortale, l'uomo che ha venduto 110 milioni di dischi dal 1960 a oggi, ha interpretato film importanti, ha vissuto una vita di eccessi, sempre in prima pagina. Ora l'Eliseo pensa a un omaggio nazionale. Abbiamo tutti in noi qualcosa di Johnny, ha scritto Emmanuel Macron con un comunicato diffuso in piena notte. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport, ma prima del calcio, come sempre in questi giorni, fateci dare questo aggiornamento dal Messico, perché è importante. L'Italia al momento terza nel medagliere del Mondiale di Nuoto Paralimpico, siamo a quota 27, preceduti da Cina e Stati Uniti, mondiali che si concludono nelle prossime ore. Si noti anche che la squadra cinese è composta da 22 persone, quella americana da 19, i nostri ragazzi del nuoto paralimpico invece sono solamente 11, quindi ottimi risultati fino a questo momento. Veniamo al calcio dunque e veniamo alla Champions. Carlo Genta, ciao. Buongiorno Simone, ciao a tutti. Riflettori sul Napoli a questo punto dopo il passaggio ieri di Juve e Roma, no? Sì, festeggiamo ancora un po' anche perché insomma Europa League le abbiamo portate di là tutte. Queste di Champions League insomma sono arrivate al risultato finale in maniera eccellente, soprattutto la Roma, perché era nel girone più difficile della Champions intera. E grazie all'1-1 del Chelsea con l'Atletico Madrid è arrivata prima nel girone, risultato meritatissimo. Ieri partita non esattamente brillante contro il Karabakh, ma l'obiettivo era vincere. Sono partite un po' brutte e sporche, ma la Roma l'ha portata a casa 2-0 e dunque meritatamente passa prima nel girone di ferro. Quanto alla Juventus, grosso modo la fotocopia un po' meno brillante di quella che abbiamo visto, che secondo me è stata meravigliosa, a Napoli. 2-0 ad Atene, brutta serata per Dybala poi sostituito, ma l'argentino sta vivendo un momento un po' così. Fatto sta che insomma la Juventus porta a casa questo risultato, seconda nel girone perché il Barcellona non fa sconti. Questa sera c'è il Napoli che gioca in Olanda contro il Feyenoord, non ha il suo destino nelle sue mani come invece era per la Juventus e la Roma. Deve aspettare notizie dall'Ucraina, perché lì gioca il City, già primo, le ha vinte tutte fin qui. Sul campo dello Shakhtar, un City che fa turnover, ci si affida a Guardiola. Io non voglio fare pessimista, non sarei così fiducioso, anche perché insomma non credo che il City voglia andare a dare battaglia inutilmente su un campo molto difficile con avversari molto affamati, con un risultato storico a disposizione, e soprattutto sempre il City con un derby di Manchester dietro l'angolo che potrebbe valere quasi un titolo anticipato, anche se siamo solo a dicembre. Allora Carlo, grazie per questo aggiornamento, poi ti ritroviamo alle 14 in tutti i convocati e come sempre con i microfoni aperti per i nostri ascoltatori, o meglio i telefoni aperti per i nostri ascoltatori. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, iniziamo il nostro giro d'Italia subito dopo. Iniziamo da Roma, da una delle nostre grandi passioni, ossia l'ATAC, per la storia che riguarda un macchinista che, lo ricorderete, non si accorse che c'era una persona che era rimasta incastrata nelle portiere della metropolitana. Perché? Perché stava mangiando, quindi non lo vide. È partito la metropolitana, adesso questa persona, dopo una serie di interventi, 11 fratture al bacino, è ancora là in ospedale, mentre lui è stato reintegrato nel suo incarico, tra cori di gioia, quantomeno sui social, dei suoi colleghi. Iniziamo da qua, subito dopo il traffico. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di esteri con la vicenda di Gerusalemme, che ovviamente tiene banco a livello internazionale, sta avendo tra l'altro anche un po' di impatto sui mercati questa tensione. Abbiamo parlato del biotestamento e della annuncio da parte del PD di voler approvare anche lo Ius Soli, delle riunioni della commissione banche, ma anche di neve col ponte dell'Immacolata in arrivo e di Champions League. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia dunque, e iniziamo da Roma. Fatemi parlare di una persona, perché forse le storie ci raccontano sempre, no? Le storie di cronaca di persone. In particolare la persona della quale parliamo qua è Natalia Garkovic. Chi è? 43 anni, avvocato, bielorussa, che è circa da un anno in Italia. È su una sedia a rotelle, ha avuto 11 fratture al bacino, è stata operata più volte, ha perso tutti i denti e può nutrirsi solamente con dei brodini, dei frullati e cose di questo genere. Questo perché Natalia Garkovic è rimasta incastrata nella portiera di una metropolitana nell'estate scorsa, nella metropolitana di Roma, è rimasta incastrata nella portiera e la persona che stava guidando quel mezzo, quel treno, quel convoglio della metropolitana, in quel momento stava mangiando, non si sa esattamente cosa, forse un panino. Alcuni dicono una Macedonia e stava mangiando, facendo un turno tra l'altro particolare, perché in aggiunta a tutto ciò, in altri orari, faceva un altro lavoro, il magazziniere. Quindi chissà, la stanchezza o chissà cos'altro, di fatto questa signora potrebbe non tornare più a camminare. Succede, Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero, che torna da noi. Lorenzo, ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao. Succede che questa persona, tra le grida di giubilo, quantomeno sui social, come si diceva prima, dei suoi colleghi, sostanzialmente torna al lavoro dopo pochi mesi di sospensione, no? Sì, 5 mesi di sospensione per il macchinista che, come hai ricordato tu, era la guida del treno che ha trascinato la signora Natalia Karkovic. I video sono chiarissimi, cioè si vede nitidamente che mentre il treno parte dalla banchina della stazione Termini e aggancia appunto con i portelloni esterni la passeggera, il conducente era intento a rifocillarsi uno spuntino, appunto, come dicevi tu, resta da capire se si trattasse di un panino o di una Macedonia. Di sicuro il conducente in quel momento stava mangiando, mentre avrebbe dovuto prestare la massima attenzione, perché ovviamente chi guida un treno ha la responsabilità poi di centinaia se non migliaia di passeggeri. ATAC aprì all'epoca subito un'inchiesta, anche con toni abbastanza duri. All'epoca c'era l'ex direttore generale Bruno Rota, che insomma è durato poco alla guida dell'ATAC, e ieri si è venuto a sapere che invece il macchinista tornerà in servizio, tornerà a guidare i treni, non quelli con i passeggeri almeno per il momento, ma a fare le manovre nei depositi, ma è il minimo, diciamo, considerato che ovviamente dopo l'incidente gli era stata sospesa l'idoneità, diciamo, la certificazione per poter guidare. ATAC dice che aspetterà gli esiti dell'inchiesta della magistratura, quindi una eventuale condanna. Vedremo poi cosa produrrà la via giudiziaria. Di sicuro dalla via amministrativa, per quanto sicuramente ATAC avrà le sue ragioni, lascia francamente allibiti, insomma, come ricordavi tu prima. Sì. La passeggera ancora oggi porta i segni sul suo corpo di quell'incidente, e chissà per quanto dovrà convivere con questi problemi, se mai riuscirà a sbarazzarsi della sedia a rotelle per spostarsi. Ovviamente, a me la cosa che ha colpito di più del servizio che hai fatto, in realtà quasi più di questo reintegro, anche se tecnicamente non è un reintegro perché il lavoratore non è mai stato licenziato, è proprio la soddisfazione dei suoi, la grande soddisfazione dei suoi colleghi di lavoro. Su questo mi si consente di dire una cosa agli ascoltatori che stanno scrivendo: la colpa è magari a dei turni di lavoro, dei manager iperremunerati, però smettiamola con questa storia che la responsabilità non è mai una responsabilità personale, va bene? Allora, qua c'è una persona che è responsabile, che era responsabile di qualcosa di importante come condurre un treno. Può essere un'operazione che è diventata nel tempo rutinaria e quindi un po' complesso mantenere l'attenzione, e però la responsabilità è là, cioè hai la responsabilità delle persone che sono all'interno di questo treno. Il tema è esattamente questo, e si diceva appunto soddisfazione dai suoi colleghi, Lorenzo, no? Sì, sì, ieri su Twitter e sui vari profili dei conducenti della metro, insomma, era tutta un'esultanza con DAIE, che è molto, molto romano come romanaccio, come hashtag. Qualcun altro rispondeva: allora per festeggiare sciopero bianco, quindi anche con un'ironia, diciamo, un po' grottesca. Sì, è un po' fuori luogo. Assolutamente fuori luogo in cui versa la metro di Roma. La sensazione da fuori è che alla fine viviamo in una città dove non paga mai nessuno. Ti ricordi anche il caso dei vigili assenteisti a Capodanno nel 2014, sì. No, oltre 700 agenti che disertarono in massa i turni nella notte di San Silvestro, e alla fine anche lì non ha pagato nessuno, perché a parte qualche micro sanzione, ammonimenti verbali, di fatto sono tutti lì. Questo è oggettivo, una storia che abbiamo raccontato come dire ampiamente, e a chiudere cioè aveva anche a quanto pare un doppio lavoro questo macchinista. Sì, i primi controlli interni che vennero fatti appunto nel luglio scorso da questi controlli emergerebbe che lui facesse, diciamo, una sorta di magazziniere la mattina e poi l'autista di sera, infatti chiedeva sempre i turni di notte. Una cosa lecita se dichiarata all'ADAC, che, diciamo, deve valutare ovviamente la compatibilità, perché, insomma, come ricordavi tu, si tratta di un mestiere estremamente delicato che riguarda migliaia di persone. E quindi ATAC deve controllare che la mansione, diciamo, fatta nei ritagli di tempo sia compatibile, sì, con i carichi di lavoro di ATAC, che lui non aveva mai dichiarato. Anche per questo, insomma, stupisce ancora di più, insomma, come questa vicenda è finita. Grazie a Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero, per essere stato con noi. Ciao Lorenzo, buona giornata e buon lavoro. Sono d'accordo con Stefano da Padova, e ci scrive su WhatsApp sulla tristezza delle persone che dicono daje di fronte a una vicenda di questo genere e addirittura ironizzano parlando di sciopero bianco. Parliamo di un altro argomento e continuiamo a parlare di lavoro, però non lo possiamo chiamare davvero lavoro, perché spesso ci siamo occupati del caporalato e del caporalato nelle campagne. In realtà c'è qualche forma di caporalato, come emerso da un'inchiesta portata a termine dalla Guardia Costiera di Livorno, caporalato anche nei pescherecci. Saluto l'ammiraglio Giuseppe Tarzia, spero di aver messo l'accento giusto sul cognome, comandante della Capitaneria di Porto di Livorno. Ammiraglio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. È giusto l'accento, sì? No, ma non importa. No, Tarzia, quindi, Tarzia. No, no, vabbè, l'avevo invitata a correggermi eventualmente. Succede questo, succede che viene ripescato, per così dire, sostanzialmente da un bagnino in acqua, un immigrato completamente vestito, questo circa un anno e mezzo fa, e viene ripescato in acqua mentre ovviamente rischia la vita. Da là parte un'indagine che voi avete portato a termine, nella quale si è scoperto appunto che questa persona era stata buttata in acqua per paura che venissero effettuati controlli sul peschereccio. Ho capito bene? Eh sì, ho capito proprio bene. La storia è veramente triste, perché all'assunzione irregolare, allo sfruttamento del lavoro, al caporalato, come in gergo si dice, che ovviamente è già di per sé una forma elusiva della obbligatorietà di rispetto contrattuali, assicurativi e previdenziali, e quindi sotto il profilo datoriale, anche perché comunque sia un'unità da pesca, per quanto piccolo o grande essa sia, è un luogo di lavoro e deve rispettare anche la normativa sulla sicurezza del lavoro, quindi tutte, diciamo così, circostanze che portano a far sì che chiunque sia assunto irregolarmente ovviamente non denuncerebbe mai il fatto che a bordo si possano verificare altri tipi di, sì, irregolarità. Ma a questo si somma il gesto veramente, diciamo, sconsiderato, ecco, la tristezza, la quale dicevo prima, cioè il rischio, non voler correre il rischio di un controllo improvviso da parte delle unità della Guardia Costiera che vigilavano nella zona dove il peschereccio pescava, e il pescatore, il capobarca, decide di, pensi un po', di buttare a mare colui che aveva irregolarmente assunto a bordo per evitare un controllo che poi lo penalizzasse sotto quei vari profili che le dicevo prima, cioè quello della regolare assunzione, l'elusione dei profili, sì, previdenziali, assicurativi e contributivi. Arrestato con l'accusa di violenza privata e sfruttamento del lavoro. C'è qualcosa che vi può far sospettare, ammiraglio, che il fenomeno sia più esteso di questo singolo caso? Sì, perché a bordo la normativa consente l'assunzione di personale straniero, ovviamente a determinate condizioni, però bisogna mettere in conto anche che queste condizioni c'è chi le vuole eludere per risparmiare sui costi della sicurezza, ed è su questo che noi dobbiamo vigilare ancora con maggiore frequenza e intensità. La ringrazio, grazie all'ammiraglio Giuseppe Tarzia, comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, per essere stato con noi. E per chiudere, poi sull'ATAC tanto torneremo più di una volta. Molti ascoltatori protestano, dicono, insomma, questo autista che cosa deve fare? Vi leggo il messaggio che ci arriva da un altro ascoltatore dice: sono un ascensorista, se dopo aver riparato un ascensore succede un incidente dovuto magari ad un errore di un collega, a me strappano il patentino e finisco subito nel penale. E questo è il quadro, solamente che l'ATAC è un luogo un po' particolare. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e poi andremo su un paio di storie un po' più leggere, una che ci parla di calcio, per così dire, e un'altra che ci parla di presepi. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: Gerusalemme, l'appello del Papa a conservare lo status quo, Iran e Turchia si schierano contro Trump. Poco fa Erdogan ha convocato un vertice straordinario dei paesi islamici, dei 57 paesi islamici, proprio nell'attesa della decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. Si chiude alle 14 con gli emendamenti per il biotestamento, approveremo anche lo Ius Soli, dice Zanda. Il ponte dell'Immacolata, si stimano 7 milioni e mezzo in viaggio, impianti sciistici a pieno ritmo. Champions League, dopo Juve-Roma che passano agli ottavi, stasera tocca al Napoli, in bilico la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Qualche ascoltatore dice: ma è mai possibile avere una trasmissione senza che si parli di calcio? Ma non è proprio di calcio che parliamo, non è proprio di calcio. Parliamo sì di un calciatore, di Eugenio Lupi. Lo ricorderete, Luppi anzi, lo ricorderete nelle foto mentre faceva il saluto romano a Marzabotto. È entrato in un vortice di polemiche, poi si è scusato, qualcuno ha detto è una ragazzata, la FIGC sta ancora indagando. Prima lui si era difeso dicendo: stavo salutando mio padre, o una cosa di questo genere. Beh, insomma, era difficilmente credibile, però insomma vedremo come evolverà. Nel frattempo però ci sono un po' di polemiche, perché la squadra del Borgo Panigale, un quartiere di Bologna tra l'altro discretamente rosso, considerate che alle ultime comunali l'area del relativa al PD, per così dire, ha fatto il 44%, lo ha ingaggiato facendolo salire sostanzialmente di due gradini e portandolo in promozione. Pino Renzi, direttore generale della società calcistica, buongiorno, benvenuto. Oh, buongiorno a voi tutti, gli ascoltatori. Avete fatto arrabbiare un bel po' di gente. Ma miseria, la cosa veramente mi ha un po', diciamo così, un po' sorpreso, non siamo ipocriti, però se le devo dire sinceramente il mio pensiero, sono rimasto allibito da questa strumentalizzazione. Ecco, come ha detto lei prima, il ragazzo ha sicuramente sbagliato, e altro che quella, è stata un'altra goliardia quella di dire che salutava suo padre. Beh, proprio, esatto. Non un'altra goliardia, perché non è proprio goliardia fare il saluto romano nel posto dove c'è stata una delle peggiori stragi della storia del nazifascismo. Per carità, dico, per carità. Abbiamo tutti quanti, come posso dire, redarguito il gesto. Il ragazzo, fra l'altro, ha chiesto scusa, come posso dire, al mondo intero, a partigiani, non partigiani, a tutto quello. Sicuramente non immaginava. Io, guardi, ci ho parlato solamente venerdì sera, perché siamo stati, poi insomma, se posso dire, dovrei stare qui una giornata intera a parlare della mia, diciamo del mio curriculum a partire dal 1994 e la mia storia che parla, per quello che riguarda noi come società, che dice: ma chi è sto scemo, scusate ogni tanto una parolina, che prende questo ragazzo, questo giocatore. Io non lo conoscevo bene, sapevo però che era una fortissima punta, fra l'altro l'avevamo anche chiamato a luglio, ma ha preferito, questo ha sempre giocato in promozione in eccellenza, ha preferito andare su altri lidi. Buonanotte senatori. Quando io a novembre, ai primi di novembre, siccome in quella società ho anche un altro mio ragazzo, mi sono prodigato per dire: vuoi rientrare? Perché insomma nello sport ci sono delle regole, diciamo così. e ho chiesto a lui di rientrare. È lui che mi ha detto: guarda, è successo un casino qui perché questo ragazzo ha fatto sì, il saluto. E la società lo metterà fuori rosa. E quindi lei a quel punto se l'è preso? Porca miseria, io non mi è sembrato vero, dico io, l'ho preso, non lì. Chiamato la società, ho parlato con il presidente della società, del FUT, e mi ha detto: guarda Pino, è successo così e noi chiaramente non possiamo... Non possiamo tenerlo dentro. E tu hai detto, me lo prendo io, è forte. Infatti no, io non ho detto me lo prendo io forte. Io, di perché se fosse stato un difensore, guardi, non me ne sarebbe fregato di meno. Il fattore dopo, che in questi momenti, dal 1 dicembre al 15 dicembre, ci sono i trasferimenti, non stiamo navigando... Sì, vabbè, al di là della questione sportiva, c'è qualcuno che dice, che esempio diamo però ai ragazzini che giocano a calcio? Perfetto. Vengo anche a questo punto. Ultimamente il mio slogan mi ha fatto sempre dire, sono diventato una cosa, lo sport unisce e la politica divide, ok? Quindi questa per me è basilare, cioè... Noi facciamo sport, è ovvio, questa è stata una grandissima cazzata, ma ripeto, non immaginava di creare tutto questo casino. E quindi, per carità, da censurare, da pistolare, di tutto, e noi da questo prendiamo sicuramente le distanze e che non ripeterà mai più, questo è poco ma sicuro. È sperabile, no? No, ma ci mancherebbe, col ragazzo gli dico, ho parlato solo venerdì sera. Ma è fascista o no questo, Renzi? Ci ha parlato lei, l'ha capito? Oh, che sia fascista, io guardi, ripeto, non metto di politica, però questo fatto, che proprio il fatto di venire da noi rossi di Borgo Panigale, perché questi sono i nostri colori sociali, vuol dire che, dice che esatto. forse il saluto romano non lo farà più. Noi nel nostro interno abbiamo anche una psicologa che cura ed accudisce alcuni ragazzi disagiati proprio. Noi siamo per questo nel mondo del sociale. E anche fascisti. Per il possibile, proprio per il possibile recupero nel mondo del lavoro di questi ragazzi un po' disagiati e facendogli fare del nostro. Lo farete incontrare la psicologa. Che miseria, la Giovanna si chiama Giovanna, non vede l'ora. Di parlare con questo ragazzo. Allora, io la ringrazio. La devo salutare. Però, insomma, Renzi, Pino Renzi, lei è una marea inarrestabile, però io la devo salutare e devo scusarmi pur salutandolo. Andrea Bassi, consigliere del gruppo consigliare Centrodestra Veneto Autonomia e Libertà. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. Mi devo scusare con lei, non riusciamo a fare l'intervista oggi, magari ci torniamo domani, che è una giornata di semifesta, che è una festa a Milano e che precede il fine settimana dell'Immacolata. La riconvocherei per parlare di questa mozione che avete approvato in Consiglio regionale Veneto. Fondi alle scuole per fare i presepi. Potete immaginare che ci sia qualche perplessità, magari ci risentiamo domani, poi ci sentiamo più tardi dopo la trasmissione e ci dice se può. Traffico Platero, ci risentiamo dopo per i saluti.